Visionari su Radio Onda Rossa, per saperne di più sulla scaletta basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, oppure sulla pagina Facebook di Visionari. Lì troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 10 luglio, suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana e l'archivio del 2014 e del 2013. L'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi è visionari@ondarossa.info. Noi si comincia con gli ospiti, ricordandovi anche che oltre alla radio sugli 87.9 modulazione di frequenza potete seguirci anche in streaming dal computer, dal sito internet della radio. Sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. È con noi il regista Emiliano Aiello per parlarci del progetto di documentario Il sogno di Omero, di cui abbiamo messo il link per saperne di più sulla partecipazione a questo progetto sulla scaletta della trasmissione. Emiliano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno, benvenuti, grazie. Allora, cos'è questo sogno di Omero? Dici tu. Allora, diciamo che fondamentalmente stiamo cercando di creare un progetto che sia in un certo senso innovativo. Non vogliamo fare un documentario che sia solo un documentario di interviste, ma abbiamo cercato in questo, diciamo, percorso che ormai dura parecchi anni di cercare di raccontare i sogni dei non vedenti dalla nascita. Ed è una cosa molto complessa ed è una cosa anche molto legata a tutto un discorso che può essere fatto sull'immaginario, l'immaginario che accompagna, diciamo, il sonno di questi ragazzi che si sono prestati alla realizzazione del documentario. E l'abbiamo fatto attraverso la raccolta di diari. Praticamente loro ogni mattina per 15 mattine si sono svegliati e hanno raccontato attraverso un registratore i loro sogni, e partendo da queste, diciamo, da queste loro descrizioni del loro immaginario, del loro inconscio, abbiamo cercato di raccontare un viaggio onirico attraverso la loro vita, e che ci permettesse di raccontare in parte il loro quotidiano, ma in parte anche tutte quelle cose, diciamo, nascoste, che magari solo nella fase onirica riescono a emergere della personalità poi alla fine di ognuno di noi. Vi siete avvalsi anche di, avvarrete di contributi scientifici rispetto al... Sì, certo. Allora, diciamo che l'idea originaria viene dalla scoperta di questa ricerca, in parte anche rivoluzionaria, fatta dal laboratorio del sonno della Università di Lisbona, fatta dal professor Lair del Bertolo. Praticamente lui è stato il primo a domandarsi, a chiedersi e a cercare di riflettere su che cosa potessero sognare persone che, diciamo, nella vita di tutti i giorni non hanno la possibilità di vedere. E soprattutto la cosa interessante è che il campione scelto poi delle persone che lui sarebbe andato a intervistare era un campione di persone non vedenti della nascita, perché le persone non vedenti della nascita non possono avere ricordi visivi, mentre ad esempio persone che hanno purtroppo perso la vista più avanti con l'età sicuramente hanno la possibilità di trovare nel loro ricordo, nel loro immaginario, delle immagini. Quindi il lavoro parte, sì, fondamentalmente da questa ricerca qua. Ho problemi col microfono. Emiliano, diciamo, quali saranno i passi rispetto anche a chi vuole partecipare a questo progetto? Certo. Allora, diciamo, il passo più importante adesso è che da qualche settimana, adesso abbiamo iniziato da poco la terza settimana, è partita una campagna di crowdfunding. Il crowdfunding che cos'è? È la raccolta fondi, diciamo, dal basso, nel senso che forse è anche la tipologia di raccolta fondi per realizzazione di questo tipo di progetti più forse più semplice, anche più innovativa, perché ti lascia la libertà di lavorare sulle tue idee. Quindi noi abbiamo lanciato questa campagna su un sito che si chiama Indiegogo, ed è un sito americano che è forse il più famoso che c'è, anche internazionalmente parlando, di fa questo tipo di cosa, questa raccolta di fondi su crowdfunding, e si può partecipare sia andando a, appunto, a vedere il progetto, a vedere i trailer che abbiamo messo, le interviste che abbiamo messo a alcuni dei partecipanti, sia, e questa è una cosa qui che invito a fare, a contribuire anche con pochissimo alla, a questa raccolta fondi. Andando su questo sito si basta mettere, cercare il sogno d'Omero, esce subito la pagina e là si possono trovare sia tutte le informazioni sia la possibilità poi per chi vuole di poter contribuire direttamente. Senti, i tempi per il crowdfunding e per la realizzazione complessiva? Allora, i tempi del crowdfunding, noi la campagna è partita, come ti dicevo, 3 settimane fa più o meno, dovrebbe terminare a metà agosto. Nel frattempo noi continueremo a girare, anche grazie ai soldi che ci sono per adesso arrivati, abbiamo la possibilità di continuare a girare, quindi abbiamo previsto delle riprese intorno alla fine di luglio, e credo che se tutto andrà bene per l'inizio del 2015 dovrebbe essere, diciamo, finito il montaggio, diciamo quasi definitivo del prodotto. E allora ci diamo appuntamento fra qualche mese? Sì, a questo punto sì, diciamo che sicuramente con l'anno nuovo ci sarà, diciamo, la possibilità di vedere il prodotto finito. Poi stiamo anche pensando a, sicuramente ci saranno delle proiezioni a Roma, probabilmente ci sarà una proiezione partecipata al Palladium, e quella forse sarà la prima proiezione e sarà dedicata, diciamo, alle persone che in tutto questo tempo ci avranno sostenuto e aiutato con i loro contributi, e poi ci saranno tutti i vari canali che spero si attiveranno per la distribuzione. Benissimo Emiliano, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille a te, ciao. Buona giornata. Ciao. Grazie. Bene, Emiliano Aiello per quanto riguarda il progetto di documentario Il sogno di Omero. Bene, andiamo adesso in Sicilia per parlare con Antonio Bellia, che è il direttore della 6ª edizione di Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, dal 15 al 20 luglio. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico. Come va? Va bene, ovviamente siamo nel pieno dei lavori, gli ultimi giorni, grande caos, grande fatica, però siamo contenti. Lo sai, lo scorso agosto sono passato per San Vito Lo Capo e ho cercato tracce del festival, c'erano un po' di manifesti in giro, però poi la sede del comune era chiusa, quindi non mi sono potuto informare più. Ah, peccato. vuol dire che devi venire prima. Sì, esatto. Devi venire quando c'è il festival. Esatto. Senti, quante opere presenterete quest'anno? Ma guarda, quest'anno abbiamo 3 sezioni competitive, che sono la sezione lungometraggi di documentari, in cui ci sono 10 opere, sì, di cui 4 inediti per l'Italia, quindi è un bel colpaccio. E poi ci sono invece, c'è la sezione corti e animazioni, che sono 23 opere, sempre in concorso, e poi la sezione mobilità sostenibile, in cui ci sono 7 opere. Sì. E poi abbiamo quest'anno abbiamo deciso di aprire una seconda sala, che sarà la scommessa di quest'anno, che sarà una, in realtà partiamo con una piccola sala, però in spiaggia, quindi con uno schermo gonfiabile, e la dedichiamo tutta ai bambini, quindi sarà una sala dedicata esclusivamente alle animazioni per bambini, mm-hmm, tutte le sere, insomma, in piazza. Senti, le tematiche forti rispetto all'ambiente quest'anno cosa vedono? Qua quest'anno abbiamo, per esempio, apriamo con un film sull'Ilva di Paolo Pisanelli, Buongiorno Taranto. Ah sì, ne abbiamo parlato con lui proprio, certo. Ah, certo. Benissimo. E tra l'altro per quella sera interverrà anche Angelo Bonelli, che è il presidente della Federazione dei Verdi, e poi ci sarà anche il direttore della dell'ARPA Sicilia per fare il dibattito, insomma, che seguirà la proiezione. Però abbiamo anche, per esempio, un film che è Capulco Voice from Gezi Park, che è sul dramma che è successo quest'inverno in Turchia, quando ci sono stati le proteste per il parco che voleva essere trasformato in centro commerciale. Ci sono stati scontri e feriti, forse non mi ricordo se c'è stata anche qualche vittima. E questo è un film di Claudio Casazza, che sarà tra l'altro presente al festival anche lui. E poi abbiamo un film interessantissimo, è The Toxic Burden, che è sulle allergie procurate dal cibo e dall'aria inquinata. E questo è un altro argomento qui nuovo per noi per quest'anno. Poi ci sono c'è un film sempre italiano che è Capo e Croce, La ragione dei pastori, che è sulle battaglie dei pastori in Sardegna, lunghissime battaglie durate anni. Poi abbiamo Le cose belle di Agostino Ferrente, che verrà anche lui da noi venerdì 18 luglio. E poi abbiamo un film che in questo momento è molto attuale, perché è un film che si chiama My Arab Friends. Scusa il mio inglese, in cui sarà presente la regista israeliana, e quindi ci racconta proprio di questa, delle vicende di lei che va alla ricerca di un suo amico arabo nella parte dei territori occupati. Quindi, diciamo, estremamente attuale per quello che sta succedendo in questi giorni. E poi un altro film, devo dire, divertente, è Mondo Banana, che è inedito per l'Italia, uno degli inediti, che è tutto ciò che si può fare con le banane. Un film divertente, lungometraggio americano, molto interessante, che esplora proprio tutto l'universo banana, che ci abbiamo. E in ultimo, l'ultimo che ti cito è Nuguo, Nel nome della madre. Ah, come no, lo abbiamo ospitato e abbiamo realizzato anche una proiezione qui a Roma, penso. Ma dai, non lo sapevo. Ed è incredibile la storia di questo luogo. Luogo dove le donne gestiscono tutto completamente in un clima di grande pace, un matriarcato realizzato, insomma. Sì, incredibile, sì. Veramente. Per cui quando l'ho visto, devo dire, ho chiesto che ci fossero i sottotitoli e non la voce fuori campo, perché voi probabilmente l'avete proiettato con la voce, col doppiaggio, e quindi ci hanno fatto una versione specifica per il festival che sarà con i sottotitoli e le voci originali. Insomma, ricchissimo di ospiti, di eventi, e speriamo che sia un'altra bella edizione. A proposito delle cose belle, stamattina Agostino Ferrente mi ha mandato un appello, che quindi, visto che siamo in compagnia tua, che lo ospiterai al festival, lo leggo. Cari amici, in questi giorni ancora per pochi è in programmazione a Roma, al Cinema Lux e al Madison, un film che sta sfidando il caldo e che vi consigliamo caldamente di andare a vedere. È un film senza attori famosi, ma con persone vere che interpretano se stessi. 13 anni di vita vera raccontata sullo schermo, che si fonda alla vita stessa fuori dallo schermo, ed è appunto Le cose belle. Quindi rilanciamo questo appello di Agostino. Mi associo all'appello di Agostino perché è un film che merita assolutamente di essere visto, e quindi invito tutti ad andare. Bene. Oppure di venire a San Vito a vederlo. O andare a San Vito da capo, esatto. Antonio, io ti ringrazio. Io volevo dirti l'ultima cosa. L'ultima cosa che volevo dire è che il nostro rapporto con Amnesty International cresce, di questo sono felicissimo. E quest'anno chiudiamo il festival con un concerto. Un evento Amnesty. E di questo sono molto orgoglioso. Solo questo. Perché è un rapporto a cui tengo particolarmente. Benissimo. Federico, grazie tante, grazie a tutti. Un abbraccio a te e a risentirci per le prossime novità. E grazie di ospitarci sempre tutti gli anni. Ciao, è un piacere. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, questo Antonio Bellia, direttore della sesta edizione di Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, in Sicilia, dal 15 al 20 luglio. È con noi Marco Neri, ci sei, regista del documentario sul Cisterra Rossa e Roma Residence, che saranno in programmazione alla Docu Arena Baccelli qui a Roma, quartiere del Trullo, l'11 luglio, quindi domani, venerdì. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cominciamo dal documentario meno recente, Roma Residence. Si parla del quartiere di Bravetta, la struttura c'è ancora, è un grosso scheletro disabitato. Cosa successe qualche tempo fa? Ma quando siamo arrivati noi a Residence già era in fase di dismissione in parte, quindi erano solo rimaste due palazzine. Però praticamente si era adottata una politica tale per cui quel posto era diventato un po' un luogo inabitabile. Sì. Questo perché la proprietà voleva il cambio di destinazione d'uso, fondamentalmente, che poi ha ottenuto dal comune. E noi ci siamo ritrovati poi in questa situazione dove però, nonostante ci fosse appunto una condizione estrema a livello igienico-sanitario e diciamo sociale, abbiamo raccontato un'umanità invece viva e presente in tutte le sue forme, perché era un luogo dove si condivideva, nonostante i disagi, la vita quotidiana con diverse culture, dai rom agli italiani in assistenza alloggiativa, la comunità senegalese, e quindi tutte queste comunità in qualche modo vivevano insieme, e noi ci siamo trovati nel raccontarle stando 6 mesi poi lì a Residence con loro, perché non è stato esattamente molto semplice iniziare a girare lì. Sì, immagino. Abbiamo dovuto conquistare la loro fiducia col tempo, con la presenza, e adesso insomma, poi alla fine il film è durato più o meno, tra le riprese e il montaggio, quasi 1 anno e mezzo. Mm-hmm. Senti, quante persone ospitava il Residence? Quando siamo arrivati noi, se non ricordo male, dovevano essere più o meno intorno alle 1000 persone, mm-hmm, più o meno, sì, su due palazzini, quindi c'era un sovraffollamento sostanzialmente, certo. Del posto. Mm-hmm. Poi che ne è stato? Dove sono state alloggiate dopo la dismissione del Residence? Ognuno ha avuto un destino diverso. La comunità senegalese era sicuramente quella meglio organizzata, come comunità interna e anche come legami istituzionali. È stata ricollocata in un altro Residence nella zona, se non erro, perché sono passati un po' di anni, è nella zona Infernetto, mentre la comunità italiana, chi era in assistenza alloggiativa, ha trovato casa, tant'è che alcuni di loro ancora siamo rimasti, cioè, si è creato un rapporto di amicizia con alcuni degli ex residenti del Bravetta, per cui li vado a trovare. Alcuni sono a Tor Vergata, nelle case popolari di Tor Vergata, e altri sulla Laurentina, fondamentalmente. Non è stata ricollocata da nessuna parte, sono stati mandati via, ecco. Oh, volevo chiederti a questo punto, passando all'altro lavoro, che è tra l'altro ultimato in questo 2014, da Roma alla Sardegna, terra di Sulcis, come raccontaci un po' di questo nuovo lavoro? Ma questo Sulcis è stato un lavoro che è iniziato con l'archivio visivo del Movimento Operaio Democratico, con cui collaboro, e la CGL Sarda. La mia proposta era quella di fare un concerto e filmare poi gli eventi che sarebbero accaduti lì, in favore dei lavoratori del Sulcis. Questa proposta è stata accolta dalla CGL Sarda, che ha finanziato questo progetto, e quindi siamo andati in Sulcis. Noi siamo arrivati poi a Carbone in un momento particolare, perché c'era la visita del ministro, che come è passata alla cronaca, per cui poi ci sono stati gli scontri, ci sono state tutto quello che si sa, insomma. Il progetto è nato dall'idea, appunto, dall'incontro che ho avuto con alcuni minatori quando sono venuti a Roma, e ho voluto raccontarli, perché ho voluto raccontare quella realtà. Quindi ho avuto la fortuna di stare con alcuni di loro durante un'occupazione di una miniera, perché quei giorni lì nel Sulcis un gruppo di operai hanno occupato una galleria. Sì. E quindi noi siamo andati giù con loro e abbiamo vissuto lì con loro 2 o 3 giorni per raccontare la loro protesta, che durava da 4 anni. E quindi è stato un primo momento. Infatti questo lavoro dura 20 più o meno 20 minuti, è un corto un mediometraggio, diciamo così, perché l'idea sarebbe quella comunque di tornare, di raccontare una realtà complessa, contraddittoria, non riducibile solo allo stereotipo, diciamo, del minatore, ma se le contraddizioni dentro il movimento operaio e fuori, i rapporti col sindacato sono abbastanza complessi, quindi è affascinante per questo. Mm-hmm. E quindi vorremmo ritornare nei prossimi tempi a Carbonia per poterci incontrare con loro nuovamente. Mm-hmm. Marco, volevo chiederti lo stato attuale dei lavoratori e delle miniere. Ma lo stato attuale dei lavoratori, allora, sostanzialmente quei lavoratori che abbiamo conosciuto noi sono stati ricollocati in regione, per fortuna, dopo una lunga lotta, erano ex lavoratori della Rockwool. Per quanto riguarda l'unica miniera di carbone attiva, la Carbosulcis, sono adesso ancora vanno avanti, ma probabilmente inizierà un periodo di riduzione del personale e si tenderà da qui a 2 anni, come ci ha raccontato Elisabetta Fois, che è una minatrice che lavora nella Carbosulcis, e oltre a essere una sindacalista, ci ha raccontato che da lì praticamente da adesso, fra 2 anni, la Carbosulcis andrà verso la chiusura, e quindi si stanno già preparando una lotta dura contro una cassa integrazione che vedrà oltre 500 operai insomma messi fuori dal lavoro, ecco. Mm-hmm. Questa è adesso la prospettiva. Okay. Ci sono grandi incertezze, fondamentalmente. Mm-hmm. Grandi incertezze su tutto il panorama, anche perché col polo industriale di Porto Vesme si tende sempre più a chiudere gli impianti, ma sì. Non ci sono soluzioni politiche alternative, sì, al carbone o altri sfruttamenti del territorio. Mm-mm-mm. Ci vorrebbe poter implementare questo, aumentare la politica, diciamo, ecologica di un certo tipo di turismo nuovo, ma non c'è un piano politico. Sì, e quindi sì. Rimane adesso, quindi si rimane così. Mm-hmm. In questa situazione di stallo. Mm-hmm. Per cui si è sempre sotto lo scacco del patronato industriale, che comunque è quello che dà occupazione all'80% della popolazione di Carbonia. Sì, e sì, quindi sì. Questa è la situazione. Mm-hmm. Fondamentalmente, per come l'ho lasciata io. Sì. Fino agli ultimi tempi, cioè, ho avuto la fortuna di sentire Elisabetta qualche tempo fa, di salutarsi e di farci una chiacchierata. Mi ha raccontato un po' qual è la situazione ad oggi. Mm-hmm. Dal punto di vista ambientale? Dal punto di vista ambientale la situazione dell'area del Sulcis è complicata, diciamo complicata per usare un eufemismo. Sì. Per quello che ho visto io ci sono situazioni al limite, alcune alle intere colline di bauxite, infatti si intitola non a caso Sulcis Terra Rossa, sì, perché sì, la terra sì, è rossa. Sì. Quelle sono delle, cioè ci sarebbe lavoro da fare per decenni per mettere in sicurezza e bonificare tutte quelle aree. Per questo parlavo di un piano politico che non è, che non c'è, che è assente. Quindi si rimane lì lo scacco di tutti i versamenti, comunque di un polo industriale molto grande, oltre alla Carbosulcis, tutta l'area di Porto Verde è un'area che comunque sia si porta dietro un carico di inquinamento importante, una zona splendida, con sì. Un'arcologia industriale unica, credo. Sì, sì, sì. Potrebbe essere sfruttata in maniera molto più costruttiva. Mm-hmm. E purtroppo, non ripeto, manca una progettazione politica, secondo me, per quello che io sono riuscito a capire parlando con loro e stando lì sul campo. Mm-hmm. Per cui c'è una grande contraddizione anche tra la popolazione civile e il mondo degli operai, perché la popolazione civile vorrebbe anche se ci si svincolasse sempre dalla dipendenza, appunto, del carbone, dell'industria, eccetera, eccetera, ma che si prospettasse una nuova politica industriale, sì, sul sì, territorio, sì. Cosa che non avviene. Mm-hmm. Sostanzialmente. Beh, no, Marco, per quanto riguarda allora la questione abitativa, la questione del lavoro delle miniere sarde, ci sarà modo di parlarne con te, perché sarai presente alla proiezione alla Docu Arena Baccelli al Trullo qui a Roma domani 11 luglio, l'orario è le 21 se non sbaglio. Sì, è le 21. Ok, e quindi un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un saluto a tutti. Ciao Marco. Ciao, ciao. Marco Neri, regista dei documentari Sulcis Terra Rossa e Roma Residence. Siamo in compagnia di Giuliano Ricci, regista del documentario L'uomo sulla luna. Ben ritrovato Giuliano. Buongiorno. Allora, mi è arrivata l'email tua qualche giorno fa che segnalava come l'uomo sulla luna a poche ore di distanza avesse ottenuto due riconoscimenti in due festival dedicati al documentario, e poi sono andato a leggere la sinossi, mi interessava molto, lo vedrò a breve sicuramente, però gli ho dedicato anche la copertina della newsletter e della trasmissione di quest'oggi con una foto tratta proprio dal documentario. Allora Giuliano, raccontiamola a chi ci ascolta. Allora, L'uomo sulla luna è un film che, diciamo, nasce da una ricerca antropologica sull'immaginario della società pastorale sarda. È un immaginario poco conosciuto, è una società che ha vissuto chiusa per secoli, è sempre stata molto insofferente alle contaminazioni esterne, e quindi mi aveva molto colpito come avesse tenuto delle tradizioni e come ci fossero ancora delle persone che le ricordassero. Quindi un po' il film è nato per volere raccontare un po' queste persone, queste donne anziane, attraverso i loro ricordi prima che scomparissero. E facendo queste interviste, man mano mi sono accorto di quanto questo immaginario fosse legato al mondo dei morti, perché sono luoghi, diciamo, che sono stati caratterizzati da faide, da guerre tra famiglie che hanno sconvolto i paesi della Barbagia, e quindi questo rapporto quotidiano con la morte e la violenza, diciamo, che ha molto influenzato l'immaginario di queste persone. E da lì ho iniziato un po' a cercare di raccogliere i sogni premonitori, perché ero partito da questo libro di Bacchisio Bandino, un antropologo molto famoso, che era andato a raccogliere un po' i sogni dei pastori della Barbagia, per tracciare un po' una mappa dell'immaginario collettivo, diciamo, di questa società, e quindi attraverso i simboli ricorrenti di questi sogni Bacchisio Bandino andava un po' a parlare di quale fosse il rapporto di questa società con l'immagine e con la morte, perché questi sogni in realtà erano il collegamento con l'aldilà. È un discorso abbastanza complesso, però mi ha molto colpito. Era oltretutto nel film, diciamo, che la narrazione è portata avanti solo da voci femminili e da donne, perché anche qui c'è dietro tutto un discorso sul ruolo importantissimo della donna all'interno della società pastorale, poiché appunto, essendo basata su un'economia pastorale, diciamo che il pastore passava mesi lontano da casa e la donna rimaneva da sola nel paese, portava avanti tutta la vita sociale, e quindi tutti i racconti, le narrazioni, tutto ciò che faceva parte della tradizione orale era qualcosa di femminile. E quindi noi siamo andati a fare queste varie interviste un po' alla caccia di sogni premonitori, fino a che non abbiamo trovato queste 3-4 signore molto simpatiche che ci hanno accolto a braccia aperte, e su di loro abbiamo costruito questo film. Che diciamo, ecco, ci tengo a dire che al di là di questi argomenti, insomma, perché appunto si parla di rapporto con la morte, con il mondo dei morti, ma in realtà anche dei connotati molto ironici e divertenti, perché poi queste sono delle persone che tendono anche un po' a sdrammatizzare, a prendersi in giro, e quindi insomma ha anche degli aspetti divertenti questo film. E poi l'ultimissima cosa è un po', c'è anche un po' il rapporto con la Barbagia di oggi, perché appunto diciamo che poi anche in questa terra è arrivato la globalizzazione, il mondo moderno, quindi diciamo che questo arrivo di questa società esterna che ha sconvolto questo immaginario ha molto cambiato questi luoghi, e quindi c'è anche un po' un continuo affacciarsi tra quello che era l'oggi, tra quello che era lo ieri e quello che è l'oggi, in un continuo contrasto, diciamo. Giuliano, mi sembra così di l'impressione, la prima impressione è che ci sia un po' un contrasto, una dicotomia tra questo universo femminile e l'altro di chiusura verso l'esterno, di violenza e di morte che aleggia un po' su tutto. Sì, in realtà non c'è neanche poi così tanto contrasto, perché la donna, avendo questo ruolo così importante, in realtà era poi colei che tirava in realtà anche le fila di tutto, quindi in realtà anche le donne, come si vede poi all'interno del film, erano coinvolte in questo mondo di violenza, nel senso che si parla proprio di un codice non scritto di vendette, di cui anche le donne facevano sicuramente parte. Sì. Senti, per allora, c'è un calendario di proiezioni? C'è un sito internet di riferimento? Il sito internet è in costruzione. Sì. Verrà proiettato all'Est Film Festival, al Libro Bizzarri e alla Festa del Cinema del Reale in Puglia. Queste sono le prossime proiezioni che ci sono del film nel mese di luglio. Quindi tra l'altro tre festival e rassegne di cui ci siamo occupati in passato e che sicuramente riaffronteremo anche per queste edizioni di quest'anno, insomma. E, a questo punto io ti ringrazio, Giuliano, e spero che vada, insomma, si arrivi magari anche a un'ipotesi di distribuzione in sala. In questo senso ci sono dei segnali? Al momento no, al momento non, ancora no, però vediamo come si muovono. Ultimamente le cose si stanno muovendo bene, quindi ci speriamo tutti. Spero di avervi dato un'idea del film. È molto complesso parlare di questo film perché, insomma, i contenuti sono veramente molti. Sì, quindi spero di avervi dato un'idea in qualche modo. Sì, io me la sono fatta, insomma, un'idea. Sei stato anche molto chiaro. Giuliano, ti abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie anche a te. A presto, ciao. A presto. Ciao. Giuliano Ricci, regista del documentario L'uomo sulla luna. Ritroviamo dopo un po' di tempo anche Francesco Azzini per parlarci delle prossime date della sua Cortomobile. Francesco, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio, Visionari. Allora, la Cortomobile, raccontiamola di nuovo a chi ci ascolta, magari per i più giovani o per i più distratti. O anche per i più vecchi che se lo sono dimenticato. Esatto. La Cortomobile è il cinema in auto, un'invenzione del 2006, e fino ad oggi ha portato appunto all'interno di questa vettura, che è un'auto appunto d'epoca, un Alfa Romeo 2000 del 74, più di 18.000 spettatori che sono entrati dentro a vedere cortometraggi. Cortometraggi, anche trailer di film anni 70, a seconda, insomma, dell'occasione che l'ha vista partecipe in festival e in piazze d'Italia e non, ecco. Senti, com'era nato il progetto? Come è venuta l'idea? Ma l'idea proprio mi è venuta al volante. Stavo andando all'ennesimo concorso di festival di cortometraggi e lì ho associato l'idea, ho detto: vorrei far vedere, partendo dai miei corti, sono un autore di cortometraggi e documentari, far vedere i corti alle persone senza avere la mediazione di festival o di sale, no? Di sale cinematografiche. E quindi da lì ero al volante, ho detto: perché non prestare i cortometraggi dentro l'auto? E poi piano piano il progetto si è sviluppato e è nato una proposta di spettacolo cinematografico itinerante per tutti, con i cortometraggi appunto distribuiti da ULOT, che è un'associazione culturale di Firenze, distribuisce corti e mediometraggi, e questa è la sua sala cinematografica praticamente. Francesco, materialmente com'è la disposizione? Ci sono quattro posti e lo schermo, intanto ti chiedo se conferma se ci sono quattro posti, e poi lo schermo dov'è posizionato? Allora, i posti sono due quando si parla di adulti, poi sì. I bambini sì, li facciamo entrare anche a gruppi di 4, anche 5 se sono molto piccoli, e lo schermo cala da sopra il volante in legno, quindi dal, dove prima c'erano i parasole, adesso c'è uno schermo cinematografico arrotolato che basta invece che un click, basta sciogliere il laccio che lo tiene legato e si svolge lo schermo, che è poi un manifesto, ogni volta che andiamo è un manifesto, un manifesto cinematografico in carta, quindi niente, uno può sempre ammirare. Adesso in questo periodo c'è l'omaggio al settimo sigillo di Ingmar Bergman, e quindi invece dentro la fotomobile uno vede le immagini di un cortometraggio degli anni nostri, ecco. Senti, ecco Francesco, altre due cose che mi venivano in mente. Dicevi 18.000 presenze in tutto questo tempo, quindi trattandosi di un'esperienza che va avanti già da qualche anno, hai messo già su un discreto archivio, immagino, appunto di immagini. E poi come sono le proiezioni tematiche e chi sceglie cosa vedere? Allora, le proiezioni sì, le sceglie lo spettatore, perché abbiamo un corto menu, ormai insomma è conosciuto. All'interno del corto menu i cortometraggi sono suddivisi in antipasti, primi e secondi e cine del set, quindi a seconda della durata e anche del tema scelto. Per esempio un antipasto in genere lo consideriamo un cortometraggio tra virgolette leggero e di breve durata, chiaramente, no? Mentre un primo o un secondo, a seconda del tema scelto, si va con una pietanza filmica più forte e anche più lunga. Abbiamo dei corti anche di 15 minuti, però chiaramente quando c'è fila consigliamo, perché c'è anche il metro, come fare appunto una scena con gli occhi. Questo facciamo il gioco con gli spettatori, ecco, facciamo questo gioco. Quindi consigliamo un piatto più veloce. No. Ecco, diciamo che quali sono i lassi di tempo, dalla durata più breve a quella insomma massima? Da 52 secondi del cortometraggio Le Scale di Luigi Ricca, che è un bravissimo animatore siciliano e illustratore, veramente bravo, e fino a... abbiamo un cortometraggio per esempio di Mimmo Mancini, uno degli attori pugliesi più conosciuti, che dura 18 minuti, bellissimo, sul disagio mentale, in questo caso lì del protagonista è proprio lui, è un corto strepitoso, ecco. E se noi in poi nel mezzo ci sono tanti corti da 4-5 minuti. Senti, a questo punto ti chiedo anche delle prossime date, perché sarai a Trieste, dici un po'. Sì, allora, riparte con per la data di mercoledì 16 luglio, ore 9:15, saremo nel quartiere museo di San Giacomo a Trieste, e lì abbiamo, diciamo, c'è l'evoluzione, no, della cortomobile. Abbiamo lanciato il cinema volante, cinema itinerante, e cioè oltre alla cortomobile, quindi la sala per 4 spettatori, lì faremo proprio il cinema sfruttando i muri, in questo caso il muro longitudinale di una chiesa. E lì proietteremo, iniziamo con Il Castello Errante di Hall, il capolavoro di Miyazaki, e quindi ci saranno due sale all'aperto. In tempo di crisi questa soluzione è piaciuta moltissimo al sindaco di Trieste, e quindi lo slogan è portatevi le sedie da casa, ai sogni ci pensiamo noi. Questo è il cinema, il punto del cinema. Mi sembri un visionario doc, benissimo. E senti Francesco, in chiusura ci dai riferimenti internet per saperne di più sulla tua attività? Sì, basta andare sul sito www.cortomobile.it e poi siamo presenti anche su Facebook, dove ci sono tutte le gallerie con le date aggiornate. Quindi su Facebook basta cercare il Cortomobile, il cinema più piccolo del mondo. Benissimo. Francesco, è stato di nuovo un piacere, ci sentiamo per le prossime novità. Grazie a voi e grazie Federico e a tutta Radio Onda Rossa. A presto, ciao. Grazie, buon lavoro. Francesco Azzini sulle prossime date della Cortomobile. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.9 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, ma anche in streaming dal sito della radio ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione Ascolta la diretta. Alberto Ravaglioli, direttore del 34esimo Fanta Festival qui a Roma, Cinema Barberini, dal 14 al 18 luglio. Alberto, ben ritrovato. Salve. In realtà non finisce il 18 luglio, ma c'è una coda molto piacevole, perché il 23, che è mercoledì dell'altra settimana, faremo la serata finale di premiazione, che sarà conclusa dalla proiezione del nuovo film del Pianeta delle Scimmie, attesissimo, che penso non farà rimpiangere quello con Charlton Heston, che è il primo della serie. Continua la saga, che è veramente immortale, perché è arrivata al settimo episodio, ha avuto anche dei serial televisivi a cartoni animati e con attori, cioè un successo strepitoso da questo noto romanzo di un autore francese, Pierre Boulle. Io personalmente continuo a preferire il primo, che ha un finale assolutamente fantastico, che avrei voluto inserire enorme nel catalogo del Fanta Festival, ma non essendo una foto, vabbè, Non preannunciamo, se no bisogna dire qual è. Sì. E chi non l'avesse visto, i giovani che non l'hanno visto e che lo potranno vedere comunque al Santa Festa, che lo presenteremo aspettando l'ultimo episodio, presentiamo il primo, avranno uno shock come l'abbiamo avuto noi più vecchiotti vedendolo a suo tempo. Alberto, altre, dimmi. Sì, dicevi altre? No, altre cose significative di questa edizione del Fanta Festival sono il fatto che dedicheremo un ampio spazio agli zombie. Tra l'altro giovedì 17 sarà la giornata, lo Beta Day, con una zombie walk che, partendo dalla Casa del Cinema a Villa Borghese, percorrerà via Veneto. Questa sfilata di appassionati travestiti da zombie truccati, che chi vuole venire truccato per conto suo lo fa, se no ci sarà nelle panchine di Villa Borghese una serie di truccatori per realizzare i migliori maquillaggi, che tra l'altro verranno anche poi premiati. Percorreranno via Veneto cercando di spaventare i passanti per arrivare alla multisala Barberini, dove la cosa si concluderà. E comunque le proiezioni al Barberini saranno tutte dedicate al tema degli zombie. Chi è interessato, fra l'altro, al programma del Fanta Festival lo può trovare online sul sito del Fanta Festival, fanta-festival.it, e insieme alle schede di tutti i film presentati. Insomma, ci si può aggiornare fin da subito. Ecco, a questo proposito, Alberto, 34esima edizione, un festival storico che ha attraversato anche diverse vicissitudini, e quante opere presenterete in questa edizione? Ma sono circa un'ottantina, fra cortometraggi e lungometraggi. I cortometraggi stanno assumendo sempre una funzione sempre più significativa nel programma del Fanta Festival, perché abbiamo deciso ormai da parecchi anni di dare molto spazio ai giovani, e quei cortometraggi sono le prime cose che un giovane filmmaker riesce a realizzare per poi evolversi eventualmente nel lungometraggio. Mm-hmm. Tutti i giorni in una delle due sale che abbiamo riservato nella multisala Barberini ci sarà proprio uno spazio dedicato ai cortometraggi, circa 2 ore ogni giorno, con opere, devo dire, molto, molto carine, molto divertenti anche. Particolarmente significativa è la presenza dei cortometraggi spagnoli, infatti abbiamo dedicato una giornata proprio ai cortometraggi spagnoli, e tra l'altro ci sarà anche un dibattito con uno dei rappresentanti delle organizzazioni che in Spagna esistono per la valorizzazione di questa forma di cinema, che ci hanno fatto avere moltissimi cortometraggi, tutti di ottima qualità, per cui cercare di capire come mai, se per l'aiuto che ricevono da parte di vari tipi di autorità, di enti o che cosa, il fatto sta che i giovani filmmaker spagnoli riescono veramente a realizzare delle cose significative, e devo dire poi questa loro propensione per il fantastico si vede all'atto pratico, perché molti di questi giovani, uno per tutti Alex de la Iglesia, tanto per dire un nome tra i più noti, sono riusciti addirittura a andare a produrre a Hollywood, a dirigere film americani, internazionali. Mm-hmm. Senti Alberto, una domanda cruciale per questa edizione, visto che comunque parlavi del pianeta delle scimmie e degli zombie, come si sta modificando e dove sta viaggiando l'immaginario rispetto al fantastico al cinema? Purtroppo devo dire le evoluzioni tecniche, che sono state straordinarie in questi anni, non hanno fatto bene ai contenuti. Mm-hmm. Perché questi effetti speciali hanno preso il predominio, la preponderanza rispetto alle sceneggiature e ai soggetti. Ormai si fanno dei film basati unicamente su effetti speciali, o peggio ancora film derivati da videogiochi, per cui sì, assolutamente. E poi i prequel, i sequel. Sì, ma non lo so, io non sono molto d'accordo. Io sì, penso che un film deve avere un buon soggetto e un'ottima sceneggiatura, sì, alle, sì, spalle, sì, se no certo, verrà sempre una cosa sgangherata. E poi se ci sono degli effetti speciali, per carità, va benissimo, però non basarsi unicamente su quelli. Ricordo dei film degli anni 40-50, dove proprio gli effetti speciali non esistevano, dove non si vedeva un mostro, dove l'orrore veniva semplicemente suggerito, eppure riuscivano a terrorizzare molto più di tante cose di adesso, dove le trippe sanguinanti sbrodolano tutte le parti. Bene Alberto, allora io ti ringrazio, un in bocca al lupo per questa 34esima edizione, a risentirci. Grazie, presto. Veniteci a trovare. Ok, ciao Alberto. Arrivederci, ciao. Alberto Ravaglioli, direttore della 34esima edizione del Fanta Festival qui a Roma, al Cinema Barberini, dal 14 al 18 luglio, anche se poi c'è una coda il 23 con la presentazione di alcune parti del nuovo pianeta delle scimmie. Allora, adesso in collegamento con Cinecittà Bene Comune per parlare della prima edizione di questo Cinecittà Film Festival, che sarà al Parco degli Acquedotti qui a Roma dal 10 al 13 luglio. Pronto, ci sei? Sì, ci sono, ecco, oh, saluto a tutte e tutti. Benvenuto. Allora, raccontaci un po', intanto partiamo dal soggetto Cinecittà Bene Comune, cos'è questo progetto? Ah, Cinecittà Bene Comune è una rete territoriale che sono anni che è presente nel territorio dell'ex decimo municipio, adesso attualmente settimo municipio, sì, e che ha visto sempre con molta attenzione le battaglie nel territorio, per cui questa idea del Festival del Cinema parte dal sostenere la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici del Città Studios, sì, che il signor Abete della Valle hanno intenzione di smettere nella loro interezza per farci un divertimentificio, un luogo con saune per VIP, si capisce bene. Poi tra l'altro il signor Abete dovrebbe dare più di 5 milioni di arretrati di affitto che ancora non versa e che sembra che il governo gli abbia dato 96 mesi di tempo per poter pagare dilazionando questo pagamento. Ti chiedo subito. Denuncia... Ah sì, vai. No, la denuncia che appunto facciamo è che per l'ennesima volta qualche cosa che potrebbe essere di pubblico, aperto al territorio, alla città, come valore concreto sia di lavoro che di produzione intellettuale, viene lasciato ai privati, i quali come al solito fanno malamente il loro lavoro e lo fanno solo a fondo speculativo. Mm-hmm. Oggi noi apriamo questo festival in contemporanea all'inaugurazione che Cinecittà sta facendo a Pomezia, appunto del loro divertimentificio, dove hanno riprodotto l'entrata del Cinecittà Studios e vi sono una serie di scenografie in mezzo poi a acquari e altre robe che non ho idea, e appunto il signor Abete della Valle appoggiati, perché oggi l'inaugurazione vi era anche il signor Renzi. Mm-hmm. Noi stiamo facendo questa iniziativa a costi di autoproduzione, perché l'ingresso è libero, stiamo qui nel parco degli acquedotti. Allora ti chiedo due cose: intanto quante persone coinvolge questa vertenza, quanti sono lavoratori e lavoratrici di Cinecittà? Sono più di 150, se non ricordo male. Mm-hmm. Comunque sono proprio le maestranze, cioè quelli che stanno lì a fare le scenografie, riversare le pellicole, eccetera eccetera, insomma. Mm-hmm. E per quanto riguarda la programmazione di questa prima edizione di questo festival autogestito, noi l'abbiamo diviso in questo modo. Sì. Innanzitutto siamo al Parco degli Acquedotti, in fondo a Via Lemonia, angolo con la circonvallazione tuscolana. Sì. E noi abbiamo diviso con questa serie il primo dibattito oggi è salviamo Cinecittà, quale futuro per la fabbrica dei sogni. Sì. Poi domani faremo un altro il film che faremo è l'intervista di Federico Fellini. Sì. Comunque ho anche un altro video fatto sugli 82 giorni di occupazione sul tetto degli studios. Sì. Comunque che spalmeremo in tutti e quattro i giorni, così daremo la possibilità a chi verrà di poter vedere e darsi un attimo uno sguardo sulla cosa. Sì. Poi venerdì il dibattito sarà invece: costruiamo il quartiere del cinema e della cultura attraverso l'uso dei fondi europei, e abbiamo invitato un po' di persone, e ci sarà il corso sotto l'argine della scuola Gian Maria Volonté. Sì. Vale. Sabato invece c'è un dibattito sempre alle 18, quale futuro per le sale cinematografiche e per il circuito autogestito della distribuzione. Faremo un corto dei fantasmi urbani, che è un'inchiesta sulle varie chiusure delle sale cinematografiche a Roma, e manderemo giù la testa, e alle 23:30 faremo un concerto con i Black Stage. Domenica è l'ultimo giorno e abbiamo il dibattito sulla festa del cinema internazionale di Roma, vetrine e occasioni per la città. Faremo un corto di Fulvio Risuelo, del centro sperimentale di cinematografia, il corto che si chiama In vita di Laura Cionci, e finiamo con il film del Sacro Gra. In questa cosa abbiamo pure voluto istituire il premio Ben-Hur, che daremo a chi secondo noi si è distinto per impegno alla difesa del cinema, delle produzioni a Cinecittà Studio. Benissimo. Senti, in chiusura ci dai anche i riferimenti internet per la programmazione, per tutte le informazioni? Sì, guarda, allora è Cinecittà Bene Comune. Sì. www.wordpress.com. Benissimo. E lì avrete tutto quanto. Spero che siete in tanti. Poi abbiamo grigliata per i vegetariani, per i cannibali, pasta, birra, pesche col vino, insomma. Quindi c'è una tutto. Serie di cose popolari proprio, insomma. Benissimo. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo Cinecittà Bene Comune per parlare della prima edizione del Cinecittà Film Festival al Parco degli Acquedotti qui a Roma, 10-13 luglio. Ritroviamo Elisabetta Antonioni, presidente di Cinemovel Foundation, per parlare della nona edizione di Libero Cinema in Libera Terra. Dal 15 luglio al 15 ottobre, Elisabetta, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio Federico, ben ritrovati a voi, è sempre un piacere essere ospiti della vostra trasmissione, da 9 anni oramai con questa tradizione va avanti. Allora, raccontiamo un po' cos'è questo Libero Cinema in Libera Terra per chi ci ascolta. Dunque, Libero Cinema in Libera Terra è la carovana di cinema itinerante che partirà appunto il 15 luglio, come dicevi, da Roma quest'anno. È una carovana di cinema itinerante che percorre tutta l'Italia con tappe quest'anno anche a Berlino e a Parigi sui beni confiscati alle mafie per delle proiezioni collettive che hanno l'obiettivo di trasformare le piazze, i beni confiscati, in sostenere il lavoro dei giovani delle cooperative di Libera Terra che hanno ridato dignità e legalità a quelli che erano i beni dei boss. Quante saranno le tappe, Elisabetta? Dunque, quest'anno le tappe sono più diluite nel corso della carovana, nel senso che dall'Arte ci spostiamo alla Campania e abbiamo tre tappe in Campania, a Castel Volturno, a Casal di Principe e a Pollica. Queste prime tappe in Campania saranno seguite tra l'altro da un inviato del Paese. Quest'anno portiamo con noi anche la stampa estera. Poi dalla Campania ci spostiamo in Sicilia, che è la regione dove il festival è nato 9 anni fa, nel 2006. 4 tappe in Sicilia, poi ci sarà la Calabria, la Puglia, e poi dalla Puglia la carovana risale e andiamo in Lombardia, a Galbiate, poi a San Giorgio di Mantova, poi ritorniamo indietro, ritorniamo per la seconda volta sulla Riviera Romagnola, a Rimini il 2 agosto, poi le tappe successive sono a settembre, il 7 settembre a Berlino, il 3 e 4 ottobre saremo a Ferrara, ospiti del Festival della Rivista Internazionale, e poi, così come è successo l'anno scorso, la carovana di Libero Cinema in Libera Terra chiude l'itinerario del 2014 a Parigi agli Atelier Varan, che sono una scuola storica di documentario nati anche loro come Cinemovel in Mozambico durante la primavera mozambicana di sviluppo e di stimolo al cinema, quando Godard raggiunse Mozambico portando la prima telecamera, e quindi c'è una sorta di gemellaggio tra noi e gli Atelier Varan, e quindi la carovana chiuderà il suo itinerario in questi 2 giorni di cinema e incontri. Mm-hmm. Anche perché uno degli aspetti nuovi della carovana di quest'anno è una iniziativa che facciamo, uno spettacolo, una piccola performance che abbiamo chiamato La Mafia Liquida. L'anteprima sarà proprio a Roma, la Casa del Jazz, il 15 luglio. È uno spettacolo tra cinema e lavagna luminosa in cui il pubblico ha la possibilità di assistere a questa sorta di visione multipla, partendo da quella che è la cinematografia sui temi dei diritti e del contrasto alla criminalità organizzata, ma rielaborata con uno strumento di archeologia tecnologica che è appunto la lavagna luminosa. Elisabetta, il gruppo che si sposta, da quante persone è composto? Dunque, il gruppo che si sposta è composto da 6 persone, ci sono io, Nello Ferrieri, che è l'altro fondatore di Cinemovel, c'è la squadra tecnica che è composta da Michele Scalet e Andrea Basti, e poi c'è l'artista che fa appunto questo spettacolo della lavagna luminosa che si chiama Vito Baroncini, e Enzo Bevar che si occupa della logistica, quindi una carovana che percorre le strade italiane con questo furgone completamente brandizzato con scritto Libero Cinema in Libera Terra, Festival di Cinema Itinerante contro le Mafie, che ogni anno si fa queste migliaia di chilometri portando all'interno del furgone sia le persone e sia l'attrezzatura. Oh. E quindi anche quello è un esempio di condivisione di idee, ideali, ma anche di vita quotidiana. Sì, sì, sì. Oh, invece l'archivio di l'archivio, insomma, quante opere presenterete e poi come le avete scelte? Che tipo di opere proietterete? Dunque, come ormai da qualche anno la scelta dei lavori che noi presentiamo viene fatta in collaborazione con Fabrizio Grosoli. I film che abbiamo scelto per quest'anno hanno dei titoli noti, come per esempio La mafia uccide solo d'estate, oppure Miraggio all'italiana, che è un film magari meno visto, ma anche questo credo che sia già uscito nelle sale, mentre abbiamo delle anteprime tipo Mare Magnum della Gulla e della Sparatore, che è un documentario che racconta la campagna elettorale di Giusy Nicolini, il sindaco di Lampedusa. Un altro film simbolo di questa carovana è La mia classe di Daniele Gaglianone, Daniele sarà con noi in alcune tappe. Un altro film che abbiamo scelto per questa carovana è Buongiorno Taranto di Paolo Pisanelli. Poi abbiamo anche due anteprime che sono The Everyday Rebellion di Ryan Bradas, che racconta la potenza delle manifestazioni creative antiviolente che si svolgono in contemporanea anche in tutto il mondo, compreso il fenomeno di Occupy Wall Street. Quindi i film che noi scegliamo sono film sì che da una parte trattano il tema legato alla criminalità organizzata, ma in maniera più ampia ci occupiamo di quella che è focalizzare l'attenzione su quelli che sono i diritti umani, mm-hmm. soprattutto nel nostro paese, dove non solo è presente la criminalità organizzata, ma dove per esempio il fenomeno immigratorio viene gestito da un punto di vista politico in una maniera che secondo me noi non possiamo più accettare. Elisabetta, sui beni confiscati alle mafie, ci sono, rispetto anche all'esperienza di questa trasmissione, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, anche soprattutto legate a documentari che hanno trattato l'argomento, ci sono sia difficoltà burocratiche che poi ambientali, perché comunque ci sono anche ritorsioni rispetto ai beni sottratti. Infatti questo è un aspetto che hai sottolineato giustamente, perché quando abbiamo fatto per esempio la conferenza stampa insieme a Ciotti e Scola per presentare proprio Libero Cinema in Libera Terra, l'aspetto su cui ci siamo soffermati è stato proprio questo. C'erano tutte le condizioni, c'era la legge, c'era tutto quanto perché questo fenomeno venisse in qualche modo, ci fosse almeno l'inizio del contrasto. Invece il fenomeno mafioso purtroppo si espande non solo in Italia, ma è una questione che riguarda tutti quanti, e i ragazzi che hanno la possibilità, perché prima viene il sequestro del bene, poi il bene viene affidato, possono passare degli anni, anche decenni, e non ci sono più le condizioni per lavorarlo, oppure come è successo per esempio 2 anni fa sui beni confiscati, stiamo parlando di terreni in Sicilia, stiamo parlando di terreni in Calabria, in Puglia, il segno mafioso si è sentito nel momento in cui tutti i terreni hanno subito degli incendi dolosi, per sì. cui in Calabria sono stati bruciati degli uliveti centenari, in Puglia hanno bruciato tutta la raccolta del grano. Quell'anno i ragazzi della cooperativa Libera Puglia avevano piantato Senatore Cappelli, che è un grano, nessuno ha potuto raccogliere olive, nessuno ha potuto fare la mietitura del grano, perché c'è stato proprio un filo di una linea di fuoco che ha colpito tutti i beni confiscati gestiti dalle cooperative di Libera Terra. L'idea di sottrarre la roba, l'idea di sottrarre la roba e di togliere la roba ai mafiosi è una cosa che li colpisce nel profondo. E il cinema itinerante si innesta proprio in questa dimensione. Ettore Scola quest'anno ha ricordato che la sorpresa è la mafia non vuole sorprese. Il cinema è una sorpresa, perché quando noi arriviamo nelle piazze succede qualcosa che non succede mai. Arrivano delle persone, si aprono le porte di questo furgone, arriva lo schermo, scendono le casse, si comincia a montare, e quello diventa quello che noi consideriamo un'agora del mondo contemporaneo, dove uno ha la possibilità di esprimere la propria opinione. In chiusura, Elisabetta, ci dai i riferimenti internet per le tappe, per le vostre attività? Certo, noi vi invitiamo tutti quanti a seguirci sul sito, che è cinemovel.tv, dove pubblicheremo quotidianamente il programma, dove pubblicheremo interviste e cerchiamo col nostro sito di dare la possibilità alle persone che non ci possono raggiungere di condividere con noi questa esperienza. Benissimo. Quindi cinemovel.tv, e chi vuole chiederci delle informazioni, la mail è info@cinemovel.tv. Elisabetta, t'abbraccio e a risentirci presto. Federico, ti aspetto giovedì 15 alla Casa del Jazz. Benissimo. A presto, ciao. Ciao, ciao. Buon proseguimento. Grazie, ciao. Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovel Foundation, sulla nona edizione di Libero Cinema in Libera Terra dal 15 luglio al 15 ottobre. Bene, avremmo dovuto sentire anche Franco Rina, direttore della 12ª edizione di Cinema da Mare, un altro festival itinerante internazionale di giovani provenienti da diversi paesi, che è cominciato il 25 giugno e proseguirà fino al 5 settembre. Non è raggiungibile, l'avevamo sentito poco fa, invece adesso non è più rintracciabile, per cui magari ci proveremo la prossima settimana. È tutto per visionari di questa puntata, di questa settimana. Tutte le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. Troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi, giovedì 10 luglio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana, ma anche le puntate del 2013 e del 2014. Idem su Facebook per Alla Voce Visionari, l'indirizzo di posta elettronica per comunicare con noi a visionari@ondarossa.info. Ricordo che potete seguirci sia in diretta radio sugli FM 87.9 in FM in modulazione di frequenza, ma anche in streaming dal computer, dal sito internet della radio ondarossa.info, ripeto, sulla homepage c'è l'opzione ascolta la diretta. È tutto, buon proseguimento, alla settimana prossima.